Eccoci qua, siamo tornati, menti criminali. Ma dove cazzo siete stati? Tra gli sguardi silenziosi di persone sempre uguali, sono tornate le menti criminali. Anno dopo anno il tempo ha disegnato un mondo senza rimorso. Ma che faccia e che coraggio buttarsi un'altra volta all'exordio. Yo, ma con chi sto? Io già lo so. Ma con chi sto? Io già lo so. Ma con chi sto? Io già lo so. Bella ND, adesso levati di lì. Da 15 anni a questa parte Larsen propone la sua arte. Le menti criminali ancora sulle piazze. Niente rime false, niente giochi delle tre carte. Solo realtà pura, realtà vera senza farse. La sentirai pulsare nelle tue casse. Un disco nuovo pieno di rime e storie d'alta classe. Sta ad ascoltare come se il mondo all'improvviso ti si fermasse. Ma con chi sto? Io già lo so. Ma con chi sto? Io già lo so. Ma con chi sto? Io già lo so. Bella Larsen, ci sto, fammi tastare. E mi riattivo anch'io col mio stile da preghiera. Entro in questa fiera organizzata alla mia maniera. Quando sono faccia a faccia col nemico giusto, è la cosa che mi esalta e che mi dà più gusto. A criticare, detestare, appressare chi del rap ha fatto una mignotta da sfruttare. La bocca l'apro quando voglio io, ma se alzo la voce può sentirla pure Dio. Why?